Il mago di Oz. Il viaggio finale. La gente della città dello Smeraldo era molto triste per la partenza del meraviglioso mago di Oz, ma allo stesso tempo erano fieri del loro nuovo capo, lo Spaventapasseri. Quale altra città al mondo? Dicevano. È governata da un uomo di paglia? Il mattino seguente, i quattro viaggiatori si riunirono nella sala del trono. Lo Spaventapasseri si assise sul grande trono e gli altri gli fecero corona. Quando mi ricordo che solo poco tempo fa stavo attaccato a un palo nel campo di grano del contadino, disse, sono davvero soddisfatto della mia sorte. Vorrei anch'io essere contenta, replicò Dorothy. Ma il mio più grande desiderio è di vivere nel Kansas con gli zii e non so proprio che fare ora. Ho riflettuto, suggerì lo Spaventapasseri. Perché non chiami le scimmie alate e non chiedi loro di trasportarti fino al Kansas? Ma che idea stupenda! Esultò Dorothy, si mise il berretto d'oro in testa e pronunciò le parole magiche. Eppe, peppe, cacche, zizi, zuzi, zic! All'istante, la banda delle scimmie alate si presentò davanti a lei. Vi prego, portatemi nel Kansas, chiese. Il re delle scimmie scosse gravemente la testa. Questo non possiamo farlo. Noi apparteniamo a questa terra e non possiamo allontanarcene. Ci sarebbe piaciuto aiutarti, ma non possiamo attraversare il deserto. E il re delle scimmie volò via con i suoi seguaci. Dorothy pianse lacrime di delusione, ma lo Spaventapasseri aveva riflettuto nuovamente e suggerì di chiamare il soldato dalla barba verde per chiedergli consiglio. C'è solo una persona in grado di aiutare Dorothy, disse il soldato. Ed è Glinda, la strega del sud. Inoltre è anche una strega buona. Per di più, il suo castello si erge sul limitare del deserto e perciò dovrebbe conoscere la via per uscirne. Come posso arrivare fin là? Chiese Dorothy. Bisogna andare dritti verso sud, ma si tratta di un cammino irto di pericoli. Mi sembra, disse lo Spaventapasseri, che malgrado i rischi Dorothy debba proprio intraprendere il viaggio per il sud. Io andrò con lei per proteggerla, disse il leone. E anch'io, aggiunse l'omino di latta. E anch'io, soggiunse lo Spaventapasseri. Non lascerò Dorothy finché non la vedrò in cammino verso il Kansas. Al mattino seguente, dunque, i viaggiatori attraversarono i verdi campi che circondavano la città dello Smeraldo. Camminarono fino a una foresta in cui crescevano gli alberi più grandi che avessero mai visto. «Che luogo incantevole!» dichiarò il leone. «Potrei vivere qui per il resto della mia vita!» Proprio in quell'attimo si udì un sordo brontolio, come il ringhiare di molti animali selvaggi. E infatti, poco distante, in mezzo a una radura, videro centinaia di belve. C'erano tigri ed elefanti, orsi, lupi e volpi. E per un attimo Dorothy si spaventò, ma il leone la rassicurò, spiegando che gli animali erano riuniti a congresso e che, a giudicare dai grugniti e dai brontolii, si trovavano in qualche grosso guaio. Mentre stava parlando, gli animali fecero silenzio e la più grossa delle tigri gli si avvicinò. Benvenuto, o re degli animali. Sei arrivato proprio in tempo per combattere il nostro nemico. Si tratta di un tremendo mostro. Assomiglia a un ragno, ma è grande come un elefante, con 8 zampe grosse come tronchi d'albero. Nessuno è al sicuro finché vive. Ci sono altri leoni nella foresta? Chiese il leone. Non più! Sono stati tutti divorati dal mostro e poi nessuno di loro era coraggioso e forte come te. Se io annienterò il nemico, promettete di sottomettervi a me e di obbedirmi come re della foresta? Chiese il leone. Con piacere, rispose la tigre. Il leone salutò i suoi amici e si allontanò con piglio audace. Trovò il nemico che dormiva fra gli alberi. Con un agilissimo balzo gli piombò sulla groppa e con una zampata staccò la testa dell'enorme ragno dal corpo. Non avrete più nulla da temere, annunciò orgogliosamente il leone agli animali. Tutti si inchinarono davanti a lui, proclamandolo loro re, ed egli promise di ritornare a governarli dopo aver escortato Dorothy nel Kansas. I quattro viandanti ripresero la strada della foresta. Quando finalmente uscirono alla luce, si trovarono davanti ad un'altura ricoperta fino alla cima di grandi rocce. Non sarà facile scalarla, disse lo spaventapasseri. Ma dobbiamo per forza passare dall'altra parte. Si mise alla testa del gruppetto, seguito dagli altri. Erano appena arrivati vicino al primo masso quando udirono una voce aspra che gridava: indietro! Non permetteremo a nessuno di attraversare la nostra collina! E un uomo strano, come non se ne erano mai visti, uscì da dietro le rocce. Era basso e tozzo, con una grossa testa schiacciata in cima e piantata su un collo pieno di rughe. Per di più non aveva braccia. Lo spaventapasseri si fece avanti e disse: noi dobbiamo passare dalla vostra collina, vi piaccia o no! Veloce come un lampo, la testa dell'uomo scattò verso l'alto. Il collo si allungò prodigiosamente e, chinandosi, colpì con la parte piatta della testa lo spaventapasseri, scaraventandolo giù dalla collina. Poi, veloce come era uscito, il collo ritornò alle proporzioni di prima. «Non sarà così facile come credi!» disse l'uomo con una risata di scherno. E i nostri viandanti udirono un coro di risate di sfida e centinaia di teste martello si fecero avanti da dietro le rocce. Con un tremendo ruggito che rimbombò come un tuono, il leone si slanciò verso la collina. Nuovamente una testa saettò in alto e il gran leone venne giù rotolando dalla collina come se fosse stato colpito da una cannonata. «Che fare?» chiese Dorothy, aiutando il suo amico a rimettersi in piedi. «Chiama le scimmie alate!» disse l'omino di latta. «Hai il diritto di chiamarle ancora una volta!» «E va bene!» rispose lei, e mettendosi in capo il berretto d'oro, ripeté la stessa cantilena. «Eppe, peppe, cacche, zizzi, zuzzi, zic!» Le scimmie, sollecite come sempre, dopo un attimo erano davanti a lei. «Portateci oltre la collina!» comandò Dorothy. «Sarò fatto!» disse il re, e all'istante le scimmie alate presero fra le braccia i viaggiatori e volarono via con loro. Mentre passavano sopra la collina, le teste martello strillavano tutte di rabbia e facevano scattare le loro teste più in alto che potevano, senza peraltro riuscire a raggiungere le scimmie alate. Ben presto Dorothy e i suoi amici si trovarono nel bel paese dei rossi pallini. Ruscelletti gorgoglianti scorrevano fra campi di grano maturo. Gli steccati, le case e i ponti erano tutti dipinti di rosso e i rossi pallini, tutti bassetti, erano anche loro vestiti di rosso. Molto gentilmente mostrarono a Dorothy la strada per raggiungere il castello di Glinda, la strega del sud. Gli ingressi del castello di Glinda erano sorvegliati da tre giovani ragazze vestite con belle uniformi rosse. Esse condussero i visitatori in una grande sala, dove la bella Glinda sedeva su un trono di rubini. Cosa posso fare per te, bambina mia?» chiese sorridendo affabilmente. Dorothy le raccontò le sue avventure nel regno di Oz, poi disse: «Il mio più grande desiderio è quello di tornare nel Kansas, dalla zia Emma e dallo zio Enrico, che sicuramente penseranno che mi sia successo qualcosa di orribile.» «Sono sicura di poterti aiutare, ma in cambio devi darmi il berretto d'oro.» «Con piacere!» esclamò Dorothy. «Ciò significa che potrai comandare le scimmie alate per tre volte. E infatti avrò bisogno dei loro servigi proprio per tre volte. Una per riportare lo spaventapasseri alla città dello smeraldo, la seconda per condurre il leone nella foresta e la terza perché l'omino di latta possa andare a governare i fifotti. Le scarpette d'argento ti porteranno attraverso il deserto, Dorothy. Se tu avessi conosciuto il loro potere, saresti potuta tornare a casa molto tempo fa.» «Ma allora io non avrei avuto il mio meraviglioso cervello!» disse lo spaventapasseri. «E io sarei vissuto come un codardo per sempre!» dichiarò il leone. «È vero!» disse Dorothy. E io sono contenta di aver aiutato i miei amici, ma ora vorrei proprio ritornare nel Kansas. Ora ti spiego cosa devi fare, disse Glinda. Devi solo sbattere insieme i tacchi delle scarpe per 3 volte e potrai comandare loro di portarti dovunque tu voglia. Tutto qui. Beh, allora è proprio venuto il momento di salutarci, disse Dorothy. Gettò le braccia al collo del leone e lo baciò, carezzandogli teneramente la testona. Poi baciò l'omino di latta, che stava piangendo in modo davvero pericoloso per le sue giunture, e infine strinse forte il soffice corpo ripieno dello spaventapasseri. Glinda discese dal trono e dette un bacetto di addio alla bambina. Poi Dorothy prese Toto in braccio, sbatté i tacchi delle scarpe per 3 volte e disse: «A casa da zia Emma!» Un attimo dopo volteggiava per aria così velocemente che l'unica cosa che poteva sentire era il vento che le fischiava nelle orecchie. Fu così che si ritrovò a sedere nella grande prateria del Kansas, proprio di fronte alla casa che lo zio Enrico aveva costruito dopo che il ciclone si era portato via quella vecchia. Dorothy balzò in piedi, senza accorgersi che le scarpe d'argento le erano cadute dai piedi, e corse più veloce che poté tra le braccia della zia Emma, che proprio in quel momento stava uscendo di casa. «Bambina mia!» gridò la zia Emma. «Ma da dove vieni?» «Dal regno di Oz», disse Dorothy seria seria. «Oh, zia Emma, sono così felice di essere nuovamente a casa!»